Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia della poetessa Angela Bottero Bodrero. È primavera. Due grossi colombi, lungo becco rosso, camminano alteri, festosi, innamorati, dolci beccate, baci affettuosi. Curiosamente uscii sul balcone, rimasi sorpresa, preparavano il nido. In alto, riparati dal tetto sporgente, al riparo dal vento, dalla pioggia insistente. Paglia, foglie, rami intrecciati, fil di ferro, a rafforzare la difesa del nido in attesa. Un colombo mi guardò, mi rimproverò. Piano rientrai, una lezione di vita. Emozionata mi preparai anch'io ad accogliere la nuova famiglia.